הסיכון לכתוב. רגע הוא הסיכון שחל חדות, ועבור המולדושי. עד שחלה המלזות הוא מתרשים לחשפה. לא נחשפה. ואני צמד למדושי, התבקת ותרקבת דרכים חמץ שחל המדושי, אלא מעלה סיפת כמלחת כמלחת כמלחת מעל מתלך עולם הסיכון. זרצים כדמוכים עבר יחד להוליה. גם להם נותן את כמל מרחמן תרבון, לא יקד, בקסיכים. סבתים, עברית, חביב מחל סבת, מלכים, לא פרטה, מעל התקות כמלחת כמלחת כמלחת. ומיד הפתרושים צריכים בפנים, ולא לקבל חלק מהחלס והחלק תמיד, וקרא את החלק, והחמל את רצילאית, והחמל את DMA, עם DMA, את כל החלדה, עם שאתה תפיל את השאלה, כל מיני לבחור עם נבקר, כל מיני לבחור עם נבקר, כל מיני לבחור עם נבקר, כל מיני לבחור עם נבקר, כל מיני לבחור עם נבקר, כל מיני לבחור עם נבקר, ומדע הלכת, היא עזרת את כל כך לא מלחש את כולה, רק סגנון מלחש. ומדע היה תמיד להסביר את דבר הזה, ומכירים את התקציב הפרקית, כי הם לא רק איתם זה. וכסיין יחצב על הלכת לא מלחש. אין כל כך נגד על העם והסחרי, לא מלחש את כך. זה לא מלחש את כך. Thank you. Thank you. Thank you. sono arrivati in Alaska con questa scimmia e il loro orbita aveva ascoltato un inglese, ma aveva acquisito l'inglese, aveva scoperto il nome di per il sacro stato ancora. Cosa fu? La cosa che mi sembra così, ancora ci sia, quindi che fu a quella di che sarà lì in un'altra cosa, ma mi sembra tutto attento, ma ci sia, ma che non si svolge il cuore che ti ha detto che ti credi, ma la sala si vede la conoscenza, ma è nella tua vita si vede che la sala è un tempo, che ti non è in una ora, o sta di mare, ma è una sala di mare, che è aspettata, è tutta la città, è tutta la città, è tutta la città, è tutta la città, è tutta la città, è tutta la città, è tutta la città, è tutta la città, è tutta la città, è ora si dice che non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, non è un caso, I'm going to go to the next one.

I don't know.